Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno e buona domenica a tutti. Abbiamo cominciato così, con le note della Sinfonia Italiana di Mendelssohn, per ospitare, per ringraziare di essere venuto con noi questa mattina l'ambasciatore Boris Bianchieri. Buongiorno ambasciatore Bianchieri. Buongiorno. E anche presidente Bianchieri, perché attualmente è presidente dell'ISPI, l'Istituto degli Studi per la Politica Internazionale. Ma ha una lunga carriera di ambasciatore, iniziata negli anni 50. Sì. Come inizia? Come le è venuto in mente di fare l'ambasciatore? Ma in parte è tradizione familiare. Mio padre era un diplomatico, è morto quando io ero molto giovane, quindi non posso dire di aver raccolto una sua eredità in senso stretto, però era qualcosa che c'era nella famiglia e nell'aria. Quasi genetica. Quasi genetica. Quindi ho sempre pensato da piccolo che quello sarebbe stato il mio sbocco, soprattutto poi, finita la guerra, mi sono avviato agli studi di scienze politiche, di giurisprudenza, e sono finito in questa carriera che, devo dire, rifarei da capo. Erano anni molto diversi, però erano gli anni della ricostruzione, gli anni 50, gli anni in cui anche l'Italia, forse sulle note di questa sinfonia, aveva una carica. C'era molto ottimismo. C'era consapevolezza della difficoltà, perché chiunque usciva dalla guerra sapeva che cosa aveva alle spalle e quali rischi ci potevano ancora essere che le cose non si aggiustassero. E poi per tanti decenni c'è stato un rischio immanente, diciamo, di conflitto, perché in fondo il conflitto est-ovest, la grande barriera che ha diviso il mondo, produceva inquietudine. Però erano anche anni di ottimismo, anni in cui una nuova Italia si andava formando, sono anche gli anni in cui si incomincia a gettare il seme di una costruzione europea, negli anni 50, nei tardi anni 50 e negli anni 60. Quindi begli anni. E anche, devo dire, la carriera diplomatica, io quando incontro dei giovani incoraggio sempre a farla, perché è una carriera, se uno ci mette dentro la disponibilità a viaggiare, a incontrare e a cambiare. A cambiare, ecco. Cosa consiglierebbe a un giovane che adesso volesse intraprendere questa carriera? Ecco, gli farei prima di tutto questa domanda: te la senti di cambiare? E i tuoi se la sentono di cambiare? La tua fidanzata o il tuo fidanzato ti segue? Perché ogni quanti anni si cambia sede? Si cambia ogni 3 o 4 anni. Di solito si fanno, diciamo, 2 o 3 anni a Roma, poi si parte e si fanno 3 o 4 anni di estero, poi un'altra sede all'estero e poi si torna a Roma. Io ho fatto 27 traslochi, ecco. Questo dà un'idea della disponibilità, una certa mobilità. Ecco, ma se guardiamo da una logica forse un po' aziendale, dopo 2 anni uno in fondo ha imparato i posti, ha preso conoscenza, ha imparato anche a comportarsi, a conoscere certe regole. Non è forse sbagliato cambiare così rapidamente? No, è il momento di andare via. È il momento di andare via prima di legarsi troppo, perché bisogna conoscere il paese. Meglio se se ne conosce anche la lingua, in molti paesi è necessario, in altri paesi è utile. Io sono stato molti anni in Giappone, confesso che non conosco il giapponese, ma io sostengo che neanche i giapponesi parlano veramente bene il giapponese, quindi sono perdonabile. Ma quando si rimane poi troppo a lungo, si diventa più gli ambasciatori di quel paese presso il proprio che gli ambasciatori del proprio paese. Si rischia di essere un po' complici di quel paese, di amarlo un po' troppo. Ecco, dei paesi in cui lei è stato, lei è iniziato in Grecia, poi è stato in Francia, poi è stato a Londra, a Tokyo, a Washington, quale ricorda con maggiore affetto? Ma io non sono nostalgico, quindi non ho delle nostalgie più forti per una cosa che per l'altra. Se devo dire, forse il paese che mi ha cambiato di più è proprio il Giappone. Io ho passato nel complesso 6 anni e mezzo, quasi 7 in Giappone. Che periodo? due volte, una volta negli anni 70, fine anni 60, principio anni 70, perché per delle ragioni incomprensibili lo Stato italiano mi mandò, io non sapevo niente del Giappone e non avevo mai visto un'esposizione universale. L'Italia partecipava all'esposizione universale di Osaka del 1970, io fui incaricato di fare il commissario per il padiglione italiano. Perché questo sia avvenuto non lo so, ma sono molto grato a chi ha avuto quest'idea, perché è stato un periodo di grande interesse, una vita diversa rispetto alla vita diplomatica, perché l'organizzazione certo. di un padiglione, io avevo come collaboratore diretto Fosco Maraini, mm-hmm. quindi uno che ha fatto amare a me il Giappone moltissimo, e direi che sul piano personale il Giappone è forse quello che in qualche modo mi ha cambiato di più. Forse sì. perché lei ama un po' la diversità, il Giappone è molto diverso. È molto diverso. Sì, se invece di passare 7 anni in Giappone l'avessi passato in Svizzera sarei rimasto la stessa persona. Passandoli in Giappone si cambia nel senso estetico, si cambia anche nell'approccio delle cose. I giapponesi sono per sbarazzarsi più che per accumulare, non so come dire. Ho capito. Quindi hanno più un senso quasi della misura, dell'usare le cose senza affezionarsi troppo, dell'essere più pratici. Sì. Un buon cittadino e un buon uomo è uno che toglie il superfluo da sé, più che uno che accumula delle nuove cose dentro di sé. Ecco, invece gli altri paesi si stanno un po' omologando, forse... Gli altri si stanno omologando. Io devo dire, sono riconoscente alla carriera diplomatica che mi ha mandato, per esempio in Inghilterra negli anni 70, era una meraviglia essere a Londra al tempo di Mary Quant, di Carnaby Street, dei Beatles, delle minigonne... Se penso alla Londra di quegli anni, penso a delle ragazze meravigliose che aspettano l'autobus. A me non è mai capitato in nessun'altra parte del mondo di vedere delle donne bellissime che aspettano un autobus. Le donne bellissime c'hanno accompagnatori, limousine, Mercedes. Invece era in quella stagione, c'erano queste bellissime ragazze che per la prima volta erano libere e sole dentro Londra. Ecco, con questa immagine delle ragazze che aspettano l'autobus, diamo un piccolo spazio alle notizie sul traffico. Incontri. Ecco, con queste note della Sinfonia Italiana di Mendelssohn riprendiamo il nostro incontro, il nostro colloquio con l'ambasciatore Boris Bianchera. Abbiamo parlato dell'inizio della sua carriera diplomatica, della Gran Bretagna, del Giappone. Ecco, mi accennava sul Giappone un ricordo particolare, ambasciatore Banchieri. Sì, il ricordo dell'imperatore, quando io ero in Giappone ambasciatore, l'imperatore era l'imperatore Hirohito, leggendario imperatore storico. Della guerra. Il quale fu la prima e unica volta che visitò un'ambasciata straniera, venne nell'ambasciata italiana perché era in visita in Giappone il presidente Pertini. E il presidente Pertini era di 2 anni più vecchio di lui. E in base a questo lui trasgredì il protocollo tradizionale che non vuole che l'ambasciatore entri in un'ambasciata straniera per rendere omaggio a qualcuno che era più anziano. Quindi anche un protocollo così stabile come quello giapponese. Così stabile come quello giapponese fu violato per volontà naturalmente dell'imperatore. Sono colloqui molto formali. Io ricordo che la prima volta che lo incontrai il gran maestro delle cerimonie mi disse: vede, la sua conversazione con l'imperatore si dividerà in 3 parti. L'imperatore chiederà notizie del suo capo di Stato e lei forse darà buone notizie. Poi chiederà notizie sue e sarebbe gradito che anche le sue notizie. Poi c'è la libera conversazione. La libera conversazione si divide anch'essa in 3 parti. Quindi tutte procedure diplomatiche. Tutte si dice procedure. Sempre che gli incontri diplomatici sono sempre franchi e cordiali. Sempre franchi e cordiali. Anche franchi. Se poi anche se ci nascondono delle dichiarazioni cose, di guerra. Indirettamente delle cose terribili. Ecco, ma è sempre facile il rapporto con i paesi con cui si ha a che fare. Lei ha avuto sempre dei rapporti con i paesi in fondo occidentali. Sì, io ho avuto dei rapporti facili. facili. Col Giappone non ne parliamo, con la Gran Bretagna, con gli Stati Uniti d'America, dove sono stato poi molti molti anni. Non ho avuto mai delle sedi dove si dovesse veramente stringere i pugni e minacciare con la voce. Quindi conosco, però sa, le difficoltà ci possono essere evidentemente anche con gli amici, certo, anzi molte anzi. Volte le difficoltà con gli amici sono anche più difficili da girare, sì, più subdole, certo. Più subdole. No, indubbiamente. Tante. Ecco, ma sotto un certo profilo, fare l'ambasciatore richiede un'abilità anche di carattere, anche di comportamento, non solo il rispetto di certe regole formali. Io credo che richieda, come forse dicevo anche prima, soprattutto attenzione e cercare di capire il prossimo, cercare di capire il paese in cui si è e cercare di capire che cosa l'interlocutore vuole. Perché se uno segue solo quello che vuole lui stesso, è difficile che ci si capisca. Certo. Com'è l'immagine dell'Italia negli altri paesi? Come si è evoluta noi in questi ultimi 50 anni? Beh, l'immagine dell'Italia ha sempre avuto qualche problema, da sempre. L'Italia è un paese che è un grande paese, ma non è fra i grandi paesi. È il più grande dei piccoli o il più piccolo dei grandi, e quindi è per definizione una media potenza che vorrebbe essere qualcosa di più. Sull'Italia circolano molti luoghi comuni, ma questo... Ecco, spesso l'immagine, soprattutto a livello così popolare, è fatta su Sole Mio, sui mandolini, sulla mafia. Sole Mio, le canzoni, la mafia, gli spaghetti, insomma. Però noi stessi siamo vittima di queste cose, anche noi pensiamo in termini di Würstel quando parliamo, non so, dei tedeschi. Sì, certo. Quindi, in parte comprensibile. C'è, direi, una distanza nella difficoltà dell'Italia di rappresentare un'immagine coerente di ciò che fa e del suo sistema amministrativo e burocratico. Questo credo che gli stranieri lo percepiscano, gli investitori stranieri se ne rendono conto, ed è uno dei problemi con i quali si, certo, confrontano, e credo che è uno dei problemi del paese. No, problemi ci sono indubbiamente, ogni tanto l'Italia parlano un po' peggio di quanto, sì, si stimano un po' peggiori di quanto realmente siano. Sì, l'Italia dà un'immagine, perché noi non siamo molto abili nel parlare e propagandare noi stessi, forse perché non ci crediamo non noi ci stessi. Crediamo, infatti. E allora, se non crediamo noi stessi di essere veramente ottimi, è difficile che facciamo passare questo messaggio con gli altri. Quindi può darsi che l'immagine dell'Italia, anzi direi che in linea di principio, è peggiore della realtà. Ma è soprattutto l'intrico, la complicazione, l'accavallamento di norme e la lunghezza delle decisioni, certo, italiane, che irrita, certo, molto spesso. La politica del rinvio, della proroga e ogni tanto anche del condono, che sono tutte malattie un po' italiane. Condoni, eccezioni, certo, lunghissimi itinerari burocratici per arrivare a delle conclusioni. Ecco, questo mi pare che sia uno dei mali dell'Italia. Ecco, lei poi, dopo essere stato ambasciatore, è stato presidente dell'ANSA dal 97, presidente della Federazione degli Editori. In fondo, tra il mondo della stampa e il mondo della diplomazia c'è vicinanza, c'è il fatto di essere entrambi testimoni. La diplomazia più testimone a livello istituzionale, la stampa più a livello generale. Assolutamente sì. C'è naturalmente storicamente una diffidenza. I giornalisti diffidano dei diplomatici perché pensano che non gli dicano la verità. E hanno ragione. I diplomatici diffidano dei giornalisti perché pensano che li mettono in difficoltà. E quindi c'è una certa diffidenza reciproca. Un tempo la diplomazia era segreta. Certo. Questo non è più così. Certo, riservatezza ce ne deve essere sempre, è doverosa, forza di cose, certo, è doverosa, ma anche nel rapporto fra enti pubblici, anche nel rapporto fra imprese. quindi la riservatezza c'è, la segretezza ormai non c'è più. In fondo lì sono stati gli Stati Uniti che creando la Società delle Nazioni a suo tempo, dalla quale poi se ne andarono perché non ci stettero poi mai, decisero che tutto doveva essere aperto, che tutto doveva essere palese, che non ci dovevano essere accordi segreti fra stati. E non che questo sia avvenuto, perché accordi segreti ce ne possono essere ancora, però la diplomazia è diventata pubblica. E quindi anche il cambiamento così dell'assetto strategico del mondo che è avvenuto negli ultimi anni, dopo il 1989, ha cambiato anche il modo di fare diplomazia. Ha cambiato molto, ma perché la diplomazia non è poi, e la politica estera non è più fatta solo da diplomatici. Un tempo la politica estera la facevano il ministro degli esteri e 4 o 5 ambasciatori. Oggi la politica estera la fanno tutti. Ogni ministro fa della politica estera, certo. Non parliamo del Parlamento, ma la fanno le organizzazioni non governative, la fanno le imprese, la fanno i mezzi di comunicazione. Ecco, in un certo senso anche questo trasportato appunto sui mezzi di comunicazione, anche adesso l'informazione la fanno un po' tutti. Prima era istituzionale, i giornali, la televisione, la radio, adesso con internet adesso tutti sono produttori di informazione. Lo so, è una comunicazione globale, permanente, totale. Lì il problema è diverso, non è più di avere delle informazioni, ma di capire quali sono le informazioni che servono e quelle che non servono. Cioè, la qualità dell'informazione. È la qualità dell'informazione. E lì è più difficile perché ogni individuo fa le sue scelte poi alla fine. C'è quello che guarda i blog e crede ai blog, a tutti i blog, e c'è quello che invece guarda soltanto la terza pagina di un giornale. Ma vede un futuro per i giornali? Non ci sarà giorno in cui... No, io non credo. Perché vede, i giornali, si è detto che i giornali tramontavano quando è venuta la radio. Poi si è detto che i giornali tramontavano quando è venuta la televisione. Poi si è detto che i giornali tramontavano quando è venuta internet. Adesso si dice che i giornali tramontano... Saranno sostituiti da una tavoletta a colori, vedremo un po'. Quello può darsi che ci sia questa trasformazione del mezzo, anche se insomma io credo che sarà meno clamorosa di quello che non si pensa. Senta, lei adesso è presidente dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano, che ha un compito anche di formare i diplomatici. Sì, direi che fra le attività dell'ISPI una di quelle che danno maggiore soddisfazione e che sono anche in un periodo di crisi e di difficoltà come quella attuale, che sono in crescenza. Noi abbiamo sempre più frequentemente la richiesta di partecipare ai nostri corsi di formazione, che sono corsi per diventare diplomatico, per entrare nelle grandi organizzazioni internazionali, la Commissione europea, certo, le Nazioni Unite, l'UNESCO, la FAO, quant'altro, e anche per le organizzazioni non governative, per il volontariato, per formare per il volontariato. Quindi abbiamo 3 settori nei quali prepariamo e credo che stiamo raggiungendo delle posizioni veramente di eccellenza in questa formazione. Oggi circa il 30% dei diplomatici italiani proviene dai corsi dell'ISPI. E se posso dire, senza vantare nulla, la diplomazia italiana è stimata, c'è un rispetto per la diplomazia italiana, direi storico. D'altronde la diplomazia è stata inventata in Italia. Certo. Le prime vere... la diplomazia è antica nel senso che... qualcuno che facesse da intermediario c'è sempre stato nel mondo, fin dai tempi più remoti, ma la diplomazia come la concepiamo oggi, cioè con delle missioni permanenti che si spostano e che stanno all'estero in modo permanente e che riferiscono su ciò che accade all'estero e riferiscono in patria e trattano per conto del proprio governo o del proprio re a suo tempo, questa è un'invenzione italiana e sono i veneziani che hanno creato. E in fondo anche in un mondo globale, in un mondo ipertecnologico, la dimensione umana, il rapporto tra le persone resta sempre fondamentale. E questo forse il messaggio che possiamo... È un bel messaggio, credo che valga la pena di crederci, perché è la realtà. Allora concludiamo qui questo nostro incontro. Io ringrazio l'ambasciatore Boris Biancheri di aversi fatto compagnia questa mattinata, e sulle note della Sinfonia Italiana di Mendelssohn speriamo che l'Italia possa avere un grande ruolo e che ogni italiano possa avere un grande ruolo. Ce lo auguriamo tutti. Grazie molto a voi.